This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Yeah. Benvenuti a tutti quanti, ascoltatori e ascoltatrici, siete su This Is Not An Exit. Questa sera tappatevi le orecchie, ma lasciatele un po' filtrare di musica. Gli Slayer con noi, e con noi anche il dottor Scarpa e il dottor Corrias, ma è tornato anche Matteo ai nostri studi, bentornato. Ciao. Buonasera. Matteo, ciao a tutti. Beh, a Matteo abbiamo fatto un bel regalo oggi. Abbiamo regalato gli Slayer per l'inizio stagione, perché se non sbaglio te è la prima della nuova stagione. Esatto. Quindi siamo ben lieti di riaverti fra di noi e regalarti gli Slayer. Che ne grazie pensi? A voi. Grazie. Ma secondo te gli Slayer erano metal o hardcore? Ah, così cominciamo? Questo è un grande... È un grande dibattito, diciamo così, perché loro vengono dal metal, soprattutto i due chitarristi, soprattutto Kerry King, che anche se si vergogna, penso tuttora, ad ammetterlo, in passato, prima degli Slayer, ha suonato brevemente nei Megadeth, salvo poi andarsene poco dopo perché la personalità di Dave Mustaine era troppo preponderante per lui. Ma no, strano, solitamente è sempre stato abbastanza quieto. Sì, tranquillo, soprattutto in quel periodo, no? Dopo, quando diventò un cristiano rinato, le cose sono cambiate. Esatto. Mentre invece Jeff Hanneman veniva soprattutto dall'hardcore, GBH, DRI, vari gruppi al confine tra l'hardcore e il metal, e soprattutto il thrash metal, che allora stava ancora nascendo. Gli Slayer furono tra i principali innovatori in questo senso. Sì, non c'è neanche bisogno di raccontarli più di tanto, li conoscerete in tanti. Diciamo che secondo me chi non li ascolta ha già cambiato canale. Chi invece ci sta ascoltando e conosce gli Slayer, spero continui, non se noi, ma gli Slayer nascono non proprio nell'88, nascono nell'81-82, quindi all'inizio degli anni 80 come fenomeno thrash metal. La cover band dei Judas Priest, se non ricordo male, facevano solo cover dei Judas Priest. Poi, come tutti in quel periodo, cominciano ad accelera, arriva Reign in Blood, ma questa è un'altra storia. Noi cominciamo un po' dopo. Blood alla fine non ce ne frega nulla, detta come vale, ne parlano tutti. Passiamo al periodo lento degli Slayer, no? Il periodo delle ballad degli Slayer. No, io non scherzo. We'll be right back. Eccoci qua, mi è scappato il brano, d'altronde l'entusiasmo qua in studio è sempre notevole, siamo sugli Slayer, qua siamo nel 1988, ma gli Slayer, diciamo, erano in giro da un po', e il thrash metal aveva furoreggiato per tutti gli anni 80, ma gli Slayer riuscivano sempre ad andare oltre, però ebbero anche una gran fortuna di essere nel posto giusto, nel momento giusto, e loro e i Metallica cominciarono a vendere prima centinaia di migliaia di copie, e poi questo disco, South of Heaven, con col primo Reign in Blood, in quel precedente, scusate, passarono le 500.000 copie, che per un genere così estremo era una novità. Le case discografiche cominciarono a diventare, come dire, fameliche anche verso questo genere, e poi col Black Album dei Metallica, ma questa è un'altra storia, le vendite superarono le milioni, penso abbia venduto più di 2-3 milioni di copie. E gli Slayer alla ruota, vendevano tantissimo, concerti oceanici in Europa, negli Stati Uniti, nelle Filippine, in India, hanno girato un po' tutto il mondo, veramente dei rockstar, nonostante tutte le tematiche che affrontavano. Faceva sorridere, perché effettivamente loro facevano parte della parte più estrema di quello che riguarda il thrash metal. Vi ricordate il Clash of Titans, o come si chiama? Cioè, no. Praticamente erano i quattro, solitamente arrivavano i quattro così padri del thrash: i Metallica, quello più commerciale, gli Slayer, quelli più death metal estremi, gli Anthrax, che erano quelli più cazzoni, sì, più hip hop, più crossover, con i calzoncini corti. Il primo gruppo metal a indossare pubblicamente dei calzoncini corti. E con tanto di cover, che praticamente era un rituale, vedere una cover in un disco degli Anthrax. Ah, voglia. E le facevano anche, se non altro, alla pari degli originali. Forse mi ricordo una cover di Celebrated Summer degli Asker Du, che è forse l'unica cover degli Asker Du ad avere un senso, no? Vabbè, quella di Joe Jackson, che mi dici? Got the Time, quella migliore proprio. Scusate se vi interrompo su duetto qua, però vorremmo anche parlare noi. No, scherzo, mi fa piacere il vostro entusiasmo. No, mi fa piacere il vostro entusiasmo, però insomma parliamo anche delle note controverse del gruppo. Gruppo, no? Sì. Perché è bene anche parlare di quello, insomma hanno avuto dei problemi riguardo ai testi, a certe tematiche, un certo, non filo nazismo, però magari filo nazismo. Cioè, non volevo citare troppo gli animi. Quindi Nicola, cosa ne pensi, insomma, di questi testi, di cosa parlavano? Ma in parte, secondo me, gli Slayer, più che esserci, ci facevano, e non poco, ci ha marciato per parecchi anni sulla la roba lì del satanismo. Comunque loro sono tra i padri del death metal, quindi comunque accostabili, eccetera. Poi ovviamente lì il problema, come per tutte le robe, si tratta di interpretazione, di maturità nell'interpretare certe robe. Cioè, ovviamente un Jeff Hanneman, ma gli Slayer in genere, fondamentalmente per dare quell'estremismo musicale, poi anche a livello di testi e tematiche, sicuramente a livello bellico erano incredibili, tant'è che nella guerra del Golfo, e qui io adesso poco fa abbiamo ascoltato un frammento di War Arsimbol, cioè parecchi soldati ascoltavano gli Slayer per caricarsi. È incredibile. Tumble burial to be, comes rotting through the night in blood. Eccoci qua, ancora This is not an exit. Prima mi sono dimenticato dei numeri di telefono, se volete mandarci un SMS o un WhatsApp o cose così, 348-7649-289, ripeto, 348-7649-289. Siamo in diretta, una seratina leggera come piace a noi, gli Anthrax che cantavano più o meno lo sport della guerra o qualcosa del genere, il supporto alla guerra, lo sport è una guerra totale, quando la vittoria è un massacro, quando la vittoria è la sopravvivenza, quando questa fine è un mattatoio, quando lo swing finale non è un fare buca, ma quante persone posso uccidere. Ho trovato bene? Sì, direi che il senso è quello, più o meno. Dei pacifisti, un po' incompresi, però comunque dei pacifisti. Beh, d'altronde, se non vado errato, Jeff Hanneman, uno dei due chitarristi, era figlio e fratello di reduci, il padre penso avesse combattuto contro i tedeschi in Europa nella Seconda Guerra Mondiale, mentre i due fratelli erano entrambi reduci del Vietnam. Quindi per lui, come dire, parlare di guerra era qualcosa di assimilato, non penso che si facesse molti problemi a parlarne e a scrivere testi, visto che si parla di sport, appunto. Magari a tavola parlavano di cosa era successo qualche anno prima e non erano proprio bruscolini. No, ma poi comunque c'era anche questa accomunanza e passione per nazismo e tutto quello che ha ruotato attorno, visto che comunque alcuni parenti, come dicevi, l'hanno vissuta in prima persona, cosa non trascurabile. E poi questa... non so se chiamarla passione o... una fascinazione, ce l'aveva, sì. Anche Lemmy di Motorhead. Anche lui ne parlava. A voglia. Collezionava oggetti della Seconda Guerra Mondiale. E riguardo alla presenza massiccia di skinhead ai concerti di Motorhead, si difendeva rispondendo: non li ho certo invitati io. No, ma anche qui stessa roba combinava pure Hanneman, cioè nel senso che alla fine quando poi gli rivolgevano domande su questa idea politica o meno, cioè lui, la sua passione era pure lui, se non ricordo male, collezionare degli oggetti particolari, perché insomma nati e vissuti in quel periodo, in quell'epoca storica, il fascino poi alla fine per l'epoca storica, insomma, un po' non ci crede, penso che non ci credesse nemmeno lui che lo diceva, però... Beh, comunque si lava, diciamo così, si lavava pilatescamente le mani, ecco. questo... You've arrived. Please stay a while, and I promise I won't keep you long. I'll keep you for another minute. Psychotic eye. ma quanto è figo la Season in the Abyss, Matte? Ma la parte finale, secondo me è interessante. Sai qualcosa di più particolare di quel riguardo? Questo è Dead Skin Mask, probabilmente uno dei pezzi più terrificanti mai scritti dagli Slayer, ispirato alla figura di Ed Gein, probabilmente il serial killer più matto in assoluto e anche più saccheggiato dall'immaginario soprattutto cinematografico. A lui è ispirato il film Psycho, e insomma, tra le varie atrocità commesse, la polizia quando entrò in casa sua trovò tutti i soffitti di casa sua decorati dalle budella delle sue vittime, come tanti festoni, no? Questo si riflette anche nelle urla finali, no? Probabilmente di bambino, adesso non ricordo sinceramente quale sia la fonte di quelle urla, ma insomma è probabilmente uno dei pezzi più terrificanti in assoluto. Non si risparmiano niente. No, direi proprio di no. Inquietantissimo, tra l'altro, quindi arrendeva parecchio. Step outside yourself and let your thoughts stray. 21 e 45 minuti primi, ancora in diretta, siete su Radio Città del Capo, 94.7, 96.25, se riuscite a sintonizzarvi bene ascolterete un'ottima registrazione degli Slayer, eh sì, perché inizialmente erano prodotti a piccole etichette dell'area di Los Angeles, ma poi un tale Glenn E. Friedman, il fotografo che ha immortolato tutta la scena, prima skate, poi pop, e poi divenne amico dei Beastie Boys, e poi conobbe gli Slayer e li presentò a Mr. Rick Rubin, cioè cofondatore della Def Jam, poi Def American, insomma il produttore dei Beastie Boys, dei Public Enemy, che pensò bene di ingaggiare anche gli Slayer. Cosa c'entrava un gruppo heavy metal di questa portata con l'hip hop? Non penso che Rick Rubin sia mai fatto molti problemi in merito. Se la musica era buona, lui la produceva e riusciva a venderla molto meglio di chiunque altro. Infatti gli Slayer, se non ricordo male, furono il primo gruppo metal mai messo sotto contratto dalla Def American, che all'epoca produceva soprattutto hip hop. Io ricordo soprattutto il primo disco di LL Cool J, realizzato quando lui aveva 16 anni ed era praticamente soltanto un beatbox e lui che rappava e parlava di quanto gli piacesse la sua radio, per dire. Questo era il livello, no? Beh, d'altronde la Def Jam fu fondata nelle stanze della Columbia University, dove Rick Rubin condivideva appunto con il suo futuro socio l'università e la stanza, niente di più. Diciamo che aveva fiuto. Becomes the ultimate end. Action, reaction, the light. Vabbè, non mandare così a freddo il pezzo successivo, perché quello va innanzitutto dissezionato decisamente. Come iniziamo a dissezionare sto pezzo e questo disco? Perché arrivato a un certo punto nell'Slayer succede una roba fondamentale, cioè va via quello che è stato sino a quel periodo lì non un batterista o il batterista dell'Slayer, ma bensì il batterista, cioè oltre a quei tempi non si poteva andare, ed era un certo Dev Lombardo, che poi, strano a dirsi, va via dall'Slayer, forma mille progetti eccetera, torna nell'Slayer più bravo di prima, cioè quindi una roba impressionante, ed entra non proprio uno alle prime armi, ma uno che già ai tempi, infatti il disco ne risente parecchio, in quanto a velocità non ha niente di meno che, ovviamente, tecniche diverse, modi di approcciarsi diversi, però anche un certo Paul Bostaff tecnicamente sapeva il fatto suo. Esatto, decisamente. Dave Lombardo se ne sarebbe andato di sua spontanea volontà poco dopo il tour per Season in the Abyss, manifestando proprio segni di stanchezza e lamentandosene negli anni successivi, nelle interviste negli anni successivi, sostenendo che gli Slayer non gli concedessero libertà creativa, che lui dovesse rimanere entro certi ranghi oltre i quali non si potesse spingere, ranghi che poi spezzerà nel suo gruppo successivo, i Grip Inc., dove potrà fare esattamente quello che gli pare, e sarà roba diversa, anche per certi versi molto strana, e che però da sola probabilmente non bastava a pagare le spese. Infatti tornerà negli Slayer poco dopo l'uscita di God Hates Us All, ritornando a fare la vecchia roba, e come dicevi giustamente tu, probabilmente meglio di prima. È incredibile a dirsi, perché di solito un batterista invecchiando peggiora, lui stranamente non so, ci sarà un ritratto da qualche parte nella sua cantina che invecchia al posto suo, non ne ho idea, ma no, era veramente mostruoso. A me fa sorridere, perché poi ricordando così vagamente anche vecchie interviste, vecchie recensioni dei dischi, dei primi dischi, e fino ad arrivare a Season in the Abyss, perché per me gli Slayer finiscono lì, cioè, ma per molti finiscono lì, e questo è il problema, diciamo così. Faceva sorridere ai tempi, però, che ogni volta, cioè, loro continuavano a ripetere che un disco degli Slayer deve essere come un disco degli, visto come un disco degli Slayer, quindi veloce con tutti i luoghi comuni del caso, eccetera, l'innovazione, chi se ne frega, noi siamo gli Slayer. Cioè io ricordavo questa cosa ben precisa, ed effettivamente era più o meno quello che fecero un po' di anni prima anche gli AC/DC, cioè il disco AC/DC è quello. Ah sì sì, mi ricordo una domanda di un giornalista controverso, no, agli AC/DC: cosa rispondete a chi vi accusa di avere registrato 13 dischi uguali l'uno all'altro? La risposta è: ti sbagli, non sono 13, sono 14. Se non sbaglio, disco in questione, per me, ma non solo per me, per molti penso, sia stato abbastanza difficile da digerire, un po' per il cambio, poi di rotta neanche più di tanto. Undisputed Attitude. No, quello precedente, io parliamo del disco che si chiamava Divine Intervention. Divine Intervention. Perché effettivamente risultava più estremo, sì, però effettivamente qualcosa era cambiato. Ma più che altro anche all'esterno, nel senso il trend, che la musica che tirava non era più quella e bisognava adeguarsi ai tempi, ed era difficile perché comunque gli Slayer incarnavano il thrash metal ancora. E i tempi però stavano cambiando, stava tornando di moda il punk, o meno quello che veniva inteso come punk nel 94, cioè una roba molto più pop e con dei testi veramente molto stupidi e pochissima distorsione, i Green Day fondamentalmente. E gli Slayer poi risponderanno a modo loro, diciamo così, realizzando un disco di cover punk in molti casi migliore rispetto agli originali, ma di questo ne parleremo dopo. Before, by the simple we adore. Invitation to the game, got the blame. Eccoci ancora qua. Sangue delle pareti? No, sulle pareti no, ma i miei timpani cominciano a dire: però, potresti anche abbassare il volume in cuffia, ma è impossibile. L'entusiasmo per gli Slayer è sempre molto alto qua nei nostri studi, spero anche nei vostri appartamenti, dalle vostre autoradio o magari dalle cuffiette dei vostri telefoni. Chissà come ci state ascoltando, questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Spalettatelo sto volume, porca miseria. Se siete in cuffia, mi raccomando, mettete la palla. E questo era un po' l'antipasto del disco che sarebbe venuto poi, del disco di cover, no? Stiamo ancora parlando di Divine Intervention, ma lo stato mentale era già quello, no? Sì, era molto vicino. Sicuramente un po' paracurata commerciale. Io ricordo che, se non sbaglio, in quel periodo là, oltre a loro, uscì pure un altro disco, sempre di cover, dei Napalm Death. O è uscito un po' dopo? Comunque, se e poco mai... dopo, pochi anni dopo, ma comunque no, sì, ovviamente... lo stato mentale era quello. Era, là, cioè... era già settato sulla nostalgia, diciamo così. Sì, che effettivamente l'idea è stata secondo me geniale, nel senso che alla fine loro hanno preso le cover, però le hanno rese comunque loro, e questa è, non è roba trascurabile secondo me. Forse si erano anche stancati di parlare di brutalità varie assortite. Beh, direi un 50-50. 50 si erano stancati, ma 50 anche il pubblico si era stancato, voleva qualcos'altro. I tempi erano cambiati. Sì, poi dopo il pubblico rivorrà indietro la roba che facevano prima e... come dire, quello che torna, sì. Come si, what comes around goes back round, no? Che poi alla fine a oggi sono un po' dell'uno e un po' dell'altro in base alle esigenze, sì, hanno sì, quella, sì, quella vena un po' hardcore, un po' new metal, e poi gli Slayer sempre con il loro trademark. Quando beh, adesso sono abbastanza, quello che rimane degli Slayer, sì, diciamo così, abbastanza più, sono un pochino più, molto diversi il tempo, la maturità. Eh beh, Hanneman è morto, Dave Lombardo se n'è andato, Tom Araya ha la scoliosi, non può più scapocciare quando suona, è una roba... vuoi mettere? Cioè. Sì, fa un po' tristezza adesso. Comunque come marchio ha reso bene per parecchi anni. Ha voglia, per me fino a tutto il 2001, fino a God Hates Us All compreso, niente da dire. E ha reso anche monetariamente. Yeah. cover a profusione questa sera, addirittura gli Stooges. Sì, ci siamo su Undisputed Attitude, il disco, come avevamo detto prima, di cover punk hardcore, prendendosi anche molte libertà. Qui il testo viene cambiato da I wanna be your dog, diventa I'm gonna be your god, cioè diventerò il tuo dio. E lo erano per molti ascoltatori di thrash metal. Sì, a voglia. Il gruppo preferito di ogni ascoltatore di thrash metal. Tra le altre cose, qui ci fu, in pochi se lo ricordano, ma per questo disco ci fu il terzo cambio di batterista. Paul Bostaff se ne andò e venne sostituito da John Dett, il batterista dei Testament, anche lì per pochissimo tempo, pochi mesi, pure nei Testament. Nel disco non ha suonato neanche una nota, ma nei video, o meglio nel video di I Hate You, compare, e compare anche nel tour successivo di supporto a Undisputed Attitude, che passò anche per l'Italia, per la precisione a Roma, in cui gli Slayer aprirono la data dei Sex Pistols, appena riformatisi. Io ricordo, in cartellone c'erano, per la data romana, perché invece la data milanese era diversa, c'erano i Bad Religion e altri gruppi punk, per la data romana ci furono Paradise Lost e Slayer, e fu l'unica occasione per vedere gli Slayer all'opera con John Dett alla batteria, perché se ne andò pochi mesi dopo e ritornò Bostaff, poi Lombardo, quindi corsi e ricorsi, batteristi che tornano poi se ne vanno, come avevamo già detto ma prima. Se non sbaglio c'è anche un'altra, così, un'altra curiosità legata al Heinemann, che dava delle direttive su come cantare a Tom Araya, cioè fondamentalmente Tom Araya ai tempi era abbastanza ancora abituato al cantato thrash metal eccetera, e Jeff Heinemann aveva un'idea ben precisa, cioè canta come canterebbe un cantante hardcore, quindi urla e urla al massimo. Infatti ha faticato parecchio per registrare questo disco qua. Io ricordo vagamente un'intervista dove lui era soddisfatissimo perché aveva praticamente cambiato modo di approcciarsi ai pezzi, tant'è che si sente che comunque anche qua tecnicamente utilizza, a parte la tonalità eccetera, proprio voci anche distorte, incredibili. È come il cantante degli Overkill più o meno, sembra una sirena, la accendi e la spegni. Infatti ho sempre pensato una cosa io, ma Tom Araya ha mai cantato? Stupid asshole, I hear the city play. Dancing in the shade, dancing in the shade, dancing in the grass. Grande successo per gli Slayer anche negli anni 90, non penso abbiano mai sbagliato un disco fondamentalmente. Controversie, denunce, processi, furono anche incolpati di aver fomentato tre ragazzi della sevizia e poi uccisione di una ragazzina negli Stati Uniti. Ma, come dire, tutto questo non gli ha mai impedito di mantenere un ottimo successo di vendite e di avere un seguito pazzesco in tutto il mondo. Anzi, delle due penso che l'abbia pure incentivato. Eh sì, il sospetto viene che, come dire, ci abbiano marciato un bel po' e cattiva pubblicità, ma pur sempre pubblicità. Pubblicità è basilare. No, mi fa sorridere il fatto che comunque c'era anche una particolarità anche tra i fan degli Slayer, cioè il fatto che comunque c'era quasi una sorta di proselitismo nei loro confronti, nel senso che comunque parecchi non si limitavano ad andare a vederli quando passavano dalle proprie parti, ma si inseguivano proprio per delle date, per non dico tour interi, ma insomma molto molto molto vicine, quei 5-6 date a botta era quasi normale andarseli a vedere. Perché comunque vedere un live, adesso forse un pochino meno, degli Slayer era come vedere in ambito hardcore un live dei Sick of It All. Sai già quello che ti aspetta, cioè dal primo istante fino all'ultimo. O dei Suicidal Tendencies. Idem. Violenza garantita dall'inizio alla fine, teste spaccate, sangue, eccetera. Era veramente un inferno un live degli Slayer. You're never- A proposito di controversie e di testi modificati ad hoc, immagino io, per provocare risentimenti, insomma, appunto, ambiguità, diciamo. Queste sono due cover dei Minor Threat, gruppo hardcore 1980, il primo hardcore di Washington, il gruppo di Ian McKay, molto famoso. Ian McKay è anche Minor Threat. Il testo originale parla appunto di Ian McKay, che Washington, nel quartiere povero dove abitava, era una minoranza essere bianchi, e lui si sentiva spesso colpevole di essere bianco, e con questa canzone cercava di... Ma non solo, letteralmente proprio i bulletti della sua classe, che erano tutti neri, lo accerchiavano e gli menavano proprio per il solo fatto di essere bianco. Esatto, lui diceva: non sono colpevole di quello che sono, fondamentalmente, ma gli Slayer, a modo loro... Hanno cambiato proprio il testo. Nell'ultima strofa si sente chiaramente Tom Araya cambiare il testo da guilty of being white a guilty of being right, cioè letteralmente colpevole di essere di destra, ma colpevole di essere nel giusto proprio. Sì, anche perché è un vecchio gioco di parole che non ha mai smesso di funzionare. E da lì Ian McKay che si arrabbia, sì, ma poi insomma tutto buono per far parlare di sé. Sì, fondamentalmente solo per quello, perché se basta poi solo guardare a Tom Araya, cileno, cattolico, praticante, cosa gliene fregava di seminare zizzania, era tutto show. Tutta grana. We'll be right back. 22-28 minuti primi, siamo costretti a salutarvi. Vi faremo ascoltare, vi assorderemmo con gli Slayer ancora per ore e ore, hanno fatto un'infinità di dischi, ma ci dobbiamo accontentare così. Buonanotte a tutti e a tutti. Buonanotte a tutti. Bella. Ciao. E ci rivediamo, ci risentiamo giovedì prossimo, sempre alle 21.05 o giù di lì. Anche se è festa. Infatti.